ci vediamo in tribunale, continua, ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa pezzo c'entra? Di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido, ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai, tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso, ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Kawet, ti spiego io cosa vuol dire Kawet. Tu sei un grande Kawet. Tu sei un grande Kawet, Cruciani. Tu sei un grande Kawet. Sai che significa Kawet? Quello che porta la gente a casa che trombano la sua moglie. Ecco che significa Kawet. Tu sei un grande figlio di puttana. Tu vuoi insegnare a noi, gli arabi, come trattiamo le donne, no? È vero? Lei è vedete un po' che esame. Ma te ne affanculo, va. Comunque sei proprio una testa di cazzo internazionale, vattene a fanculo, grandissimo pezzo di merda, stai a gioire perché ha vinto Musumeci, sei una testa di cazzo come il cazzo dell'elefante, l'anima degli mortacci tua per essere abominevole, tutto gli mortacci tua. Luciani, sei un cazzo di schiavo di merda, lo sciacquapalle ufficiale di Vittorio Sgarbi, ma levati, va! Facciamo un delirio! Dovete sentirmi, 42 anni di contributi per avere 500 euro di pensione all'INPS! L'INPS! Cosa vuol dire bastardi islamici? Ma che cazzo vuol dire bastardi islamici? Stronzo di merda, quando sei insultato ti va bene. Stronzo che sei altro. Stronzo che sei altro. Stronzo che sei altro. Stronzo che sei altro. Stronzo che sei altro. Ho capito. Ma l'imp, dov'è l'imps? Dov'è tutto l'imps? Quello che ho sentito e la cosa più fastidiosa è quella, tra tutta questa, come dire, collezione di, no, di frasi, la cosa che più mi innervosisce è quando quella tenta di argomentare, peraltro. Ho versato i contributi. Beh, io cosa faccio ogni mese? Ovvio, ho versato anch'io i contributi. Allora? E allora? All'impge. E allora? Tutti verso i contributi. Non argomentare, stai zitta. Ladri! Quello ci sta sempre bene comunque. Dai, è una cosa incredibile. Quando argomenta, rimandi un attimo che tenta di argomentare la sua vicenda. È incredibile. Raccapricciante. Dovete sentirmi, 42 anni di contributi per avere 500 euro di pensione all'INPS. L'Ibis. Mamma mia, ragazzi, L'Ibis. Mamma mia, L'Ibis. Mamma. Che paese, ragazzi. Eccoci qui anche oggi, amici miei, incredibilmente in onda, anche sì, oggi, sì. E sì. Devo dire la verità. Non l'hanno ancora chiusa sta roba, no, infatti, non incredibile, chiuso. Devo dire la verità, caro David, il delirio è sempre ai massimi livelli, questo perché sì. Anche il direttorissimo Vittorio Feltri oggi si esprime sulla Sicilia come io più o meno mi sono espresso ieri. Ho letto che avevo scritto. Un cazzo ha detto, non me ne frega un cazzo. Della Sicilia, ti riassumo, poi tu farai i Feltri che vuoi più tardi. Della Sicilia non me ne frega un cazzo. La Sicilia suscita in me lo stesso interesse del comportamento sessuale degli scarafaggi. Zero. Silvio ha vinto, ma non riuscirà a trasferire il successo su base nazionale. Il governo dell'isola, qualsiasi colore abbia, non combina mai niente, tira a campare, paga i forestali, crea buchi spaventosi nei bilanci, non è in grado di sistemare alcunché. Ragazzi, è quello che ho detto io modestamente, dico io da qualche giorno. Non ce ne frega nulla di quello che è successo. Esultano gente che fa alchimie politiche, gente che parla di governi nazionali, gente che brinda Musumeci, gente che dice abbiamo perso, abbiamo vinto. La realtà è una sola, non cambia una mazza. Mi pare evidente che non cambia una mazza, anche perché ieri sera, per esempio, dalla vostra parte. Io pensavo citassi altre trasmissioni parte, perché Libero parte. Invece ti mette in prima pagina su Libero Quotidiano, ma ne parleremo dopo. Sì, su Libero Online. Vabbè, sì. No, ma che c'è? No, ma diciamolo subito, anzi. No, foto, no, foto. Dai. Cruciani ospite a Tiki Taka, che argomenta, c'è una bella signorina vestita normalmente. Francese, sì, una francese. Titolo: nudità. Già lì uno dice: come nudità? Che cosa vuol dire? Nudità, Tiki Taka, roba porno. Lei vestita così, in diretta, Cruciani fuori controllo. Ma non è vero. Ormone alle stelle. Ma non è vero. Occhio a cosa succede. Uno apre perché è incuriosito. E non succede niente. Stavate parlando di calcio, non succede niente. Niente. Non succede nulla. Nulla. Nulla. Assolutamente nulla. Niente. Allora ragazzi, ieri dalla vostra parte c'era il sindaco di Sortino, che è una delle città dove ci sono più forestali in Sicilia, che a un certo punto, siccome era tutto organizzato, arriva là e poi se ne va subito dopo. Senti. Allora, buonasera, io sono il sindaco. Prego. Intanto non condivido completamente il format della trasmissione. Perché vabbè, le informazioni che date non sono corrette. È lecito per noi fare domande, scusare, a voi perché rispondere. Non possiamo partecipare a una gogna mediatica, no, quando lei dà gogna, informazioni sindaco, che non sono veritiere. E che allora, cos'è che non è vero? Mi dica. Gli operai sono 300 stagionali, significa saranno un'ottantina di persone, perché lavorano 3 mesi l'anno. Sono persone che non riescono ad avere una vita dignitosa e voi li strumentalizzate in una trasmissione solo per fare audience. Io come primo cittadino non posso consentire che i sortinesi facciano questa figura, perché non sindaco, è corretto. Noi siamo venuti e non spesso è a Sortino, abbiamo raccontato la realtà così com'era e nessuno ci ha mai detto nulla. Quindi insomma ci dispiace che lei ci abbandoni, però. Allora ragazzi, ma lo vogliamo dire che questi 22.000 forestali, quelli che sono stabili o non stabili, sono uno scandalo rispetto al resto del paese, rispetto a tutte le zone del mondo che sono piene di boschi, eccetera. Sono una vergogna. Purtroppo ormai ci sono degli stipendi che vengono dati, e se uno toglie quegli stipendi magari questi qua muoiono di fame. Ma l'Italia che lavora, l'Italia che lavora in maniera normale, non noi che non facciamo un cazzo, ma l'Italia che lavora, che lavora, non si dovrebbe scandalizzare di fronte a questi qua? Non si dovrebbe scandalizzare? Ma sì, siamo eppure Vittorione Sgarbi, eppure Vittorione Sgarbi dice che costano meno 24.000 forestali che il parco eolico della mafia, piuttosto che il parco eolico. A ridaglio questo parco eolico, vai. 24.000 persone per un'area meravigliosa, per il paesaggio, costano meno che un parco eolico violento, con i soldi dello Stato buttati, incentivi criminali ed Europa che non dà soldi all'agricoltura e all'artigianato, ma li dà alla mafia che specula sull'energia pulita. I forestali sono vita, sono luce, bisogna redistribuirli, dice Vittorione. Quando ci sono quegli incendi, i forestali diventano vita, diventano luce. Non è così. No, occorre distribuirli. Prego, Claudia, posso aggiungere una cosa? Ma a loro, Garbi, e non alla violenza inaudita della mafia che sfrutta la Sicilia. Ma restano ancora impresse, caro Davide, le parole ieri del signor Fabrizio Braconeri. Non so se come definirlo, ex attore. Quello della terza C, là, come cazzo si chiama quel telefilm? Sì, ragazzi della terza ragazzi C. Della terza C, che ha detto innanzitutto che bisogna cacciare via tutti i musulmani dall'Italia. Bracconeri come Donato da Varese. Io si parla ancora di nazione. Io non ce l'ho con i neri. Io ce l'ho con i musulmani, che è una cosa diversa. È il fattore religioso che non può esistere. Li cacciamo tutti, non dici? Tutti i musulmani. Ma io caccierei pure quelli italiani che sono diventati musulmani. Tutti cacciarli via. Il Corano, dice Bracconeri, è scritto da dementi. giochi. Sto dicendo, ma cosa dici? Ma se uno dicesse ma tu sei pazzo, tu sei un criminale, sei pazzo, sei. Se qualcuno dicesse la stessa cosa del Nuovo Testamento, io mi diventerei una bestia, pur non credendo al Nuovo Testamento. Non dire che ti puoi accoppiare con una ragazzina dell'Orenzo. Ma cosa dici? Ma non dire stupidaggini. Maledetto Corano, bracconeri. Rimaniamo a casa loro, in Arabia Saudita, in Iraq, in Iran, in Marocco, in Tunisia. Da dove cazzo sono venuti? Tornano, perché questi che vengono da noi sono la merda, perché in testa ci hanno quel maledetto Corano, ecco, che non può maledetto essere Corano. Maledetto, ma come ti permetti? Maledetto da strappare. E infine, tanto no. per... tanto no, per no. gradire, radere al suolo le moschee. Mamma mia. Le moschee, che facciamo? Bombardarle le moschee. Ma come bombardarle al suolo? Ma come fanno loro con le chiese? Ma quando mai bombarda le chiese? Ma cosa dici? L'ISIS bombarda le chiese. Ma cosa dici? Le moschee, dai. Bombardarle, proprio raderle al suolo e fa un bel centro per i paesi. Anzi, alcune centro moschee che sono grandi, costruisci un bel carcere bello, fatto bene. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Appena gli si dice che un rom ha stuprato, ha rubato quel coglione di Parenzo, non generalizzare, non generalizzare, con quella voce del cazzo che si ritrova. Appena sente una cosa che non gli sta bene, detta da uno del dei 5 Stelle, ecco, questo è il tipico elettore del Movimento 5 Stelle, sempre con quella voce del cazzo. E non stai generalizzando, cazzone, stai generalizzando o no? Cazzone, sei un cazzone. Allora ragazzi, ancora... un caro saluto da David Barenzo. No, io adesso mai uso questo... fastidiosissimo mantra. Allora, un ragazzi, caro saluto. Continuano le indagini sullo stupro a Roma da parte molto probabilmente di quei due rom, anzi un rom, l'altro di quei che due criminali. Rom, di quei due criminali. Ripeto, di quei rom. Due criminali, criminali, di quei due criminali. Rom, in questo caso di quei rom. Due criminali. Ovviamente la quinta colonna, caro Parenzo, la sì, cosa ha fatto? Trasmissione la quinta colonna. Sì, cosa in assoluto ha mandato colonna? Poletti al campo rom. Beh, evidente come dove mandare dice che un poche... gatto come mandare un gatto in un vivaio di topi praticamente uguale. Allora, a proposito di topi, in poche ore, dice Poletti, avrò incontrato centinaia di ratti. Glielo vabbè, certo, quello, poveretti, certo. Avrò contato in poche ore centinaia di ratti che attraversano il campo, che è in condizioni igieniche pessime. I familiari del rom difendono il ragazzo. La mamma di Seferovic, sentiamo. Mio figlio, io sapevo, non è sta cattivo con un'altra persona, lui stava tranquillo a casa. Lui stava tranquillo a casa, non ha fatto quelle cose perché ragazza denuncia dopo 6 mesi. Io sapevo Mario, non ho fatto quelle cose, io stavo vinta e non ho toccato quella ragazza. 6 mesi passati, perché non fare subito denuncia? A dopo 6 mesi, e perché ha fatto denuncia? Certo, tu Parenzo potresti dire lo stesso ragionamento 6 mesi dopo lo applicate magari alle ragazze che fanno che denunciano no, le molestie dico, sui no, produttori no, eccetera io eccetera. Dico esattamente un'altra dico esattamente un'altra cosa, che è purtroppo una madre che difende dei potenziali figli criminali, non sappiamo se sono stati loro, ma mettiamo che siano stati loro, abbandoniamo qualunque garantismo perché sono dei rom e quindi non meritano il garantismo che in genere ci propone. Allora, siccome sono dei rom sono stati sicuramente loro ancora prima del processo, però non mi risulta strano il fatto non mi sorprende il fatto di una madre che difenda i due figli normale, criminali. Sì. Quindi non c'è da scandalizzarsi, perché in tutte le famiglie italiane dove purtroppo ci sono stati episodi di violenza di questo tipo, a prescindere dai Rom, le mamme difendono sempre i figli, i padri difendono sempre i figli. È una storia comune all'umanità. Comunque diciamo, la mamma non dice che quella ragazza stuprata dice bugie. Vabbè, questo non lo so perché ha fatto quella denuncia, ha fatto bugie quella ragazza. Vabbè. Non mi dispiace per lei. Non mi spiace per quella ragazza. Le spiace o non le spiace? Non mi spiace. Non le spiace? Non, no, per me non mi piace cosa si è fatto quelle cose. Allora adesso voglio farti sentire Freccero che dice che Berlusconi fu fatto fuori. Sai che Berlusconi adesso è tornato in auge, diciamo, no? Anche se non si potrà candidare, ma Non si potrà candidare, ma è tornato in auge per la vittoria di Musumeci. I sondaggi che attribuiscono al centrodestra. Avete provato a distruggerlo per anni. Ma avete tu hai provato a distruggerlo per anni. Nelle campagne, guardando nelle sue lenzuola, lei sempre considerato un erotomane, un porco maledetto. Ora ovviamente sto scherzando. Allora, Freccero, Berlusconi fatto fuori da un colpo di Stato. Ha preso una bella rivincita perché è stato fatto fuori ancora una volta, ricordato, con un colpo di Stato, come voi sapete benissimo, con la storia appunto del 2011, che nell'opinione pubblica non si è mai radicato questo fatto, perché c'era il bunga bunga. Di conseguenza il fatto che lui fosse stato fatto fuori dai poteri forti non è stato percepito. Eliminato dai poteri forti teleguidati. Naturalmente con Berlusconi ho lavorato, con Berlusconi, naturalmente, come voi ben sapete, naturalmente. Forse anche perché non era vero. No, era il colpo di Stato. No, sì, vabbè, è stato eliminato dai poteri forti. È stato eliminato dallo spread, lo spread della finanza. Però per la verità ha perso in Parlamento Berlusconi, però, no? Nel 2011. Sì, però diciamo una cosa per favore, che è stato fatto fuori dallo spread. Lo spread era teleguidato. Poi dice una cosa contro la sinistra: quando si ha fame non si pensa ai matrimoni gay ma al salario. Dice i diritti, chi se ne frega, la sinistra doveva pensare alla gente povera. Signor Freccero, questo però non è sbagliato. Quando si ha fame non interessa sposarsi fra omosessuali o fra lesbiche, ma interessa avere in qualche modo il salario, un lavoro, eccetera eccetera, le cose essenziali. Enrico, provincia di Treviso, apriamo, eccetera eccetera, apriamo. Naturalmente dice sempre naturalmente eccetera eccetera, voi lo sapete naturalmente. Guy de Bar. Enrico, vai, dimmi. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Vai veloce, ciao caro. Allora, ciao, premetto bello, velocemente, ciao, non ciao, faccio ciao. Parte della maggioranza silenziosa. Ma questo chi se ne frega, dai. Si capisce. Porto la mia testimonianza riguardo alla circoncisione. Praticamente. Ottimo. Sei circonciso? Sì. Da quanto? L'ho fatto a 16 anni, adesso ne ho 28. Sì, allora? Va bene. Praticamente confermo che c'è una lieve perdita di sensibilità del glande. Sì. Alcuni mesi dopo che avviene la circoncisione. Sì, perdita di sensibilità del glande. Una leggera, quindi ritardi verificabile l'eiaculazione. Esatto. E qui no, esatto, lo dico da me da sempre io, quindi è chiaro che tu confermi due cose: perdita di sensibilità del glande e ritardo nell'eiaculazione, giusto? Sì. E quindi duri di più. Di conseguenza. Non una cosa incredibile, ma comunque l'ho avvertita nel corso della mia esperienza con le donne. Dunque E dunque devi credere alla mia testimonianza, alla nostra testimonianza. Io non credo a nulla, per me sono tutte puttanate, cioè non è delle puttanate pazzesche. È scientifico, non ma è sono delle puttanate, dai. Comunque, la diminuzione di sensibilità del grande è un dato scientifico. Anche al tuo amico Rocco Siffredi, che anche lui ovviamente è circonciso, come ben sai. Non mi sembra proprio che sia circonciso, No, verifichi. Vabbè, ma comunque questo è un altro discorso. Comunque, ma chi se ne frega? Che discussione inoltre, è? Però, scusatemi. Inoltre, aspetta, c'è anche una terza cosa a livello estetico, sì, interessante. È bello passare da Freccero a Enrico dalla provincia di Treviso che parla della circoncisione, livello, dei vantaggi della circoncisione. A livello estetico, le signore che ho avuto il piacere di incontrare. Di incontrare, hanno sempre apprezzato anche fatto un buon nome riguardo alla circoncisione. Vabbè, questo ascoltatore in maniera molto sintetica, molto precisa, dice i vantaggi, ci ha, come dire, è fotografato secondo lui i vantaggi della circoncisione. Pur non appartenendo alla maggioranza silenziosa. E non è nemmeno capisci? Ebreo, fermi tutti. Ecco, fermi. No. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modulblock, l'evoluzione del magazzino. stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Zanzara. Siete due clown pagati da Confindustria. Mi fate schifo. Mi fate schifo. Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393-7171-701. Pare, ma vastu me la sta sfaccimi rombo o no? O te fa schifo per caso? Comunque sono piuttosto convinto che dopo tutte queste settimane che Parenzo l'ha schifata, maltrattata, Sabaeta non voglia andare più a casa di Parenzo. Chiamatela, sentitela se Sabaeta vuole andare a casa di Parenzo. Secondo me no, lo schifa anche lei. Parenzo, sei un coniglio. Parenzo, Sabaeta, come ha dichiarato, rischia la vita, rischia di essere bruciata nel campo Rom, a casa sua. Devi dare assolutamente a Sabaeta asilo politico presso la tua residenza, asilo politico per ragioni umanitarie a Sabaeta presso la residenza di David Parenzo. Rapidamente, rischia la vita, David, non puoi averla sulla coscienza. Beh, questa è buona, questa è buona, la situazione è drammatica e Parenzo dovrebbe farsi carico assolutamente. Torniamo a bomba su questa vicenda che abbiamo abbandonato per un po' di giorni. Parenzo dovrebbe farsi carico della situazione drammatica dal punto di vista dei diritti umani. Cioè, la situazione è talmente drammatica che una persona come te, internazionalista, mondialista, io non sono l'ONU, quello, io non che, sono quello l'ONU. Che parla di diritti, non sono la Caritas, di non sono l'ONG, non ricevo finanziamenti da Soros, su. Sono soltanto David Parenzo. Quindi cosa posso fare? Posso agire nel mio quotidiano, fare delle piccole offerte, carità, ma quanto anche molte altre cose che non verrò mai a dire alla radio. Ma è lo Stato che si deve occupare di questo, non sarà Parenzo a salvare Sabaeta, ma sarà lo Stato. Guardi che si chiama Sabaeta, tutti questi la chiamano Zappaeta, si chiama Sabaeta. Queste sbagliano sono pure a chiamarla. Queste, le tue sono solamente chiacchiere. E quando si deve passare ai fatti, c'è una donna in pericolo. Il web che ha chiesto oltre 10.000 persone, ha chiesto un piccolo aiuto, un contributo. Ma me ne frego del web, me ne frega niente del web a me. Siciliani invece che ne pensa, direttore? Ma frega un cazzo, io ad esempio ho chiuso il giornale oggi e non me ne frega, vado a cenare al Baglioni dove almeno 500 euro a cena ogni volta, che non pago mai io ma paga l'editore, ovviamente. Non me ne frega niente di questa roba. La Sicilia è finita, hanno votato e chi se ne frega? Va bene, si vota in continuazione, chi se ne frega? Io vado il titolo domani sul giornale, su Libero, ho fatto una grande apertura e basta. Com'è sui siciliani, naturalmente? Com'è? No, ma si chiama, ne frega niente, ho scritto male per tutti, maledetti. Uno può dire Rom, maledetti, è molto semplice, è un titolo normale, questo fattuale, è Sallusti. Sembra Sallusti, maledetti, sì, sembra Sallusti, Sallusti. Ma, però Sallusti è meno, parla con meno violenza, è più d'accordo, sì, certo, mi pare evidente che Berlusconi è stato perseguitato e la sinistra è una merda, cioè mi pare normale. Sallusti è più, capito? Sì, ha sì. La R che lo anche lo ingentilisce, sì, in un certo qual modo, sì, lo ingentilisce, lo imborghesisce, però dice delle cose, ma mi pare evidente che la sinistra è piena di ladri, stuprato, ad esempio l'ultimo stupratore evidentemente votava per Renzi, è chiaro, vero, no? Un Rom, ma che c'entra? Sì, un Rom che ha dichiarato più volte, abbiamo un'intervista al giornale, che votava per Matteo Renzi, vero. Ma non diciamo nulla di grave, nulla di male. Allora ragazzi, gira per il web, per il cosiddetto web, gira un video in ambiente diciamo grillino che proverebbe che ci sono stati dei brogli in Sicilia. Allora, quindi, praticamente ieri. Sì, no, no, no, no, ho capito, ma attenzione, dai, ho detto gira sul web una cosa che non è ancora verificata, magari è tutto un fake, un video finto, in cui c'è un signore che va all'ufficio, credo, elettorale e si informa sulla madre se ha votato, la madre che praticamente è impedita dal fatto di andare a votare, dunque dovrebbe essere, diciamo, accompagnata al voto. Imbarazzante. Sentiamo. Volevo sapere, signora, se mia madre aveva votato. Che mia madre è in una casa di cura qua. Io dico il nome. Carace Piera si chiama. Sì, Gravina. Ok, e chi l'ha fatta votare? Ha votato. E hanno chiesto l'autorizzazione. Ma l'autorizzazione, l'autorizzazione mio fratello solo la può dare l'autorizzazione, perché è interdetta. È interdetta, solo. Capito? Quindi la madre interdetta, la firma, l'autorizzazione. Però a me un po' mi puzza questo video, devo dire la verità, un po' mi puzza. Questo prova tutto, hanno vinto i 5 Stelle, in realtà va rifatto tutto. Prova tutto questo, prova tutto. L'hanno copiata. Sì. Perché mia madre non può firmare, signore. Sì, con lei viene con me. Mia madre ci diamo a mangiare noi. E ferma così, ma non ne muovi più, quindi come può andare a firmare? E come può votare? Cioè, c'è nera. È incapace. L'hanno sistemata, l'hanno scelta, dopo c'è complice pure. L'amico nostro della cosa l'hanno scesa da solo, l'hanno vestita, l'hanno messa giù, vuol dire che c'è una complicità. I brogli elettorali con gli anziani che non possono andare a votare trasportati al seggio, bah, bah, bah. Qui da verificare sicuramente. Molti su web mi dicono, ecco la prova che c'è stato un imbroglio. Ragazzi, ma non rompete i coglioni su, non rompete i coglioni, non rompete i coglioni con queste stronzate, dai. Oh, della serie sti cazzi, due notiziali importanti, importanti che però appartengono alla, alla categoria da noi ormai rimpatrizzata in questo modo, eccolo qua. E sti cazzi! Allora, la prima è questa, Bianca Azzei, Biagi mi ha lasciato e non so perché. E sti cazzi! L'altra è Bobo Vieri, padre per la prima volta, avrà un figlio dall'ex velina Costanza Caracciolo. E sti cazzi! Molto bene, molto bene, molto bene. Mohamed da Firenze, avanti con Mohamed, avanti. Avanti con Mohamed, su. Dimmi, dimmi, Mohamed, dimmi. Buonasera, solidarietà a Parenzo. Ma perché? Perché grazie, cosa? Grazie. Solidarietà, non c'è bisogno. Parenzo per gli attacchi degli ultimi giorni. Ma quali attacchi? Di che cosa? Grazie molte. Ma grazie. Non c'è nessun attacco, ma quello dice siamo grazie. In tanti, che siamo in tanti. Siamo in tanti, non mollo. Sto qui. Maggioranza silenziosa che ogni tanto si incazza e si alza. Un saluto. Bravo, a fratello, Paco, grazie. E tutta la comunità senegalese, perché ma chi veramente se ne frega, ma che è questa? Grazie ma di essere venuto in Italia, grazie alla comunità senegalese che vorrà voglio incontrare nei popolo. Prossimi mesi, grazie. È Radio Bubù, è Radio Bubù, complimenti alla sera, ma dai, su, saluto alla comunità senegalese, ma chi se ne frega? Saluto alla senegalese, non riesco a odiarti, perché guarda, il mondo c'è da odiare. Sarà amore. No, mettiamo le cose in chiaro. Bravo, noi non dobbiamo odiare, fratello, noi dobbiamo amare il diritto. Un attimo solo, Mohamed, io voglio capire una cosa. Innanzitutto, tu dove abiti? A Firenze, ma da dove vieni? Da quale luogo? Questo che ha fatto, questo deficiente? Mohamed. L'hai trattato male e ha chiuso Mohamed. Ma che è? Sta a parlare con qualcun altro? Ha chiamato Paco. Ha chiamato Paco da Belluno. Questo deficiente ha schiacciato un tasto. Deficiente, sarà, ha messo in pausa. Mohamed, ma che cazzo fai? Parli con altro, scusa. Stai alla radio e parli con altro. No, no, ho sbagliato tasto. No, volevo dire alla comunità musulmana di non chiamare e di non attaccare Cruciani e di non incazzarsi quando Cruciani, anche se provoca tutto, perché Cruciani, anche non volendo, lo potrebbe mettere in culo a qualcuno. Cioè, se qualcuno magari ingenuamente dice qualche parola. Perché noi siamo una religione di pace. Sì. Vabbè, bravo. Mohamed, no, l'appello allo state calmi è importante. Innanzitutto tu sei un fake. Siamo una religione di pace. Innanzitutto tu sei un fake. Pace, come dici tu, lo innanzitutto sai tu sei un fake totale. Non sei Mohamed. Sei un italiano che fa finta di fare musulmano, fa finta di fare marocchino, ma a noi non ci freghi, vieni a rubare a casa dei ladri, amico mio. Vieni a rubare a casa dei ladri. Stai zitto, lo dici a tua sorella, lo dici a casa tua, alle tue donne, non lo dici a me. Lo dici alle tue donne. Che cosa hai detto? Che cosa hai detto prima? Guarda che abbiamo i traduttori, che cosa hai detto? Sono musulmano, ce ne ho 8 donne. Sono sposato con 8 donne che fanno il mio porco comodo. Ah, bella roba. No, non ti sento bene, Mohamed, sei in viva voce. No, mi senti. Mi senti? Sì, ma Mohamed, non è che puoi fare il cazzo dei comodi tuoi qua. Dai, ma non puoi fare il cazzo dei comodi. Stai a casa mia, non puoi fare il cazzo dei comodi tuoi, chiaro? Allora dimmi, che cosa hai da dire? Dimmi, che cosa hai da dire? Lo sai perché una religione di Bace? Sì, vabbè, dai, Mohamed. Perché non siamo stati noi a ammazzare i nonni di Parenzo, né a fare le crociate alla prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Ma adesso non facciamo la storia qui. Cosa vuoi stasera? Cosa vuoi stasera? Cosa vuoi stasera? Non ho capito. Ah, no, ecco, cosa volevo. Sì. Volevo che a me mi fa ridere il paradosso è quando un ciuciaro si indigna delle parole di Nabil la bestia, quel Antonio dalla mi hai rotto i coglioni, Antonio dalla provincia di Messina, dai Antonio. Antonio? Sì, dimmi. Ciao. Dimmi. Mi senti? Dimmi, dai, forza, vai avanti. Allora, semplice, volevo dirti, hai detto prima, accusando i 20.000 precari che lavorano o fanno finta, come dici tu, di lavorare con la forestale in Sicilia. Io non ho detto che tutti fanno finta di lavorare. Ho detto che 22.000 forestali. Questo è uno scandalo. Certo che è uno scandalo. È una vergogna, non uno scandalo. Una vergogna. Vivere con 800 euro per 4 mesi l'anno, lo sai cosa significa sopravvivere, non vivere. Non sopravvivere. Ma tu sei un forestale. Sei un forestale? Non sono un forestale, ma ho un genitore che è precario. E ti dico forestale, che è tuo padre è un genitore, è un precario forestale? È un precario della regione Sicilia. Vabbè, pazzi, è precario della regione Sicilia. Purtroppo tuo padre è stato ingannato dai politici siciliani. Questo è il punto. Certo. Dovreste fare però nomi e cognomi. Adesso c'è stata una campagna elettorale. Ma Antonio, io non ho capito, ma qual è il punto? No, fammi finire di parlare. Un ragazzino di 20 anni ha preso quasi 20.000 voti. Sì, 21 anni, sì, genovese. Ma chi te l'ha detto che sono della mafia? Come fai a provarlo? Che i voti di Genovese, del figlio di Genovese, sono della mafia? Tu che cazzo dici? Ma saranno i voti? Ma sono i voti del padre? Sono i voti del padre. Quindi non esiste oggi un ragazzo di 20 anni che in Sicilia fermola, adesso hai cambiato argomento. Sei partito dai forestali e sei andato ai voti che ha preso il figlio di Genovese a Messina. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Su piazzaitalia.it acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. C'è tensione. Tradimento. La città no! Pure gambe negre! Stai dicendo che facendo la parola la mia verde figlia mia! Parenzo, buonasera, so Pinuccio da Cerniola, senti si proprio nutramone. Vieni a farmi le carezze, coglione, straminchione del cazzo, vieni, anch'io ti faccio le carezze, sì, ma non lentamente con la moviola veloce, ti do tanti di quegli schiaffi che ti stacco le orecchie, brutto imbecille, il nonno, brutto imbecille, ma se c'hai 6 o 7 anni meno di me, coglione, chi sei tu, un ragazzino? No, sei un cinquantenne sfigato, con una piccola differenza, che a me... Trescore me l'hanno data gratis, a te neanche a pagamento te la danno, talmente sei antipatico, coglione, idiota e culottone. Tito, Titolone, eccolo, il mio bel pupattolone. Posso parlare o mi dovete rompere il cazzo? Calmati. Con la mia dialettica Gomez, o devo stare a ascoltare se ti il suo... Gomez, ti vuole parlare? Posso parlare? Puoi parlare posso quando parlare? Te lo dico io, un secondo, posso grazie. Mi fai parlare, porca puttana! Vuoi farmi parlare? Crucia, confermo, ho detto è un dovere nazionale violentare sto pezzo di merda. Dopo tutti hanno iniziato a dire maladetto. Ecco perché loro hanno iniziato a dire perché lui ha pronunciato quella frase lì che è un dovere nazionale e le donne hanno detto no no no no no no no no no no no no, questo non ti permettiamo. Allora, eravamo con Antonio dalla provincia di Messina, caro Antonio. Eravamo veramente da Antonio da Spadafora. Spadafora, ma che è un posto, uno dei posti principe dei forestali in Sicilia, uno dei posti dove ci sono più forestali? Assolutamente no, perché io vengo da un paese di mare. Vabbè, comunque Antonio, voglio capire una cosa, cerca di parlare meglio, se no non si capisce una sega. Allora, scusami un attimo, allora, tuo padre è forestale, sì. Giusto? Mio padre è uno dei precari come forestali. Vabbè, ho capito, è forestale. Siciliano. Antonio, non ti sento. Marco dalla provincia di Venezia, dai, via, via, via. Marco, vai. Dai, Zanzarosi. Vai, dimmi. Allora, dimmi. Propongo una cosa molto importante, di sti cazzi. Allora, parliamo seriamente di politica. Sì. Abbasso la monarchia e viva la figarchia! In che olè! Senso? Ma che c'entra? Scusa. Mamma mia, dov'è questo, la monarchia? Ragazzi, quanto l'ha studiata? No, la monarchia... Non è allora, che ha studiato, monarchia, questo è ubriaco totale. Monarchia come di Parenzo. Ah, viva la monarchia. Vuol dire tutto imbecille, però vuol dire anche l'apparato genitale femminile. Però siccome monarchia è un sistema di sovrani, no, di re, hanno detto viva la figarchia. Vabbè, Marco, allora, è una puttanata allora, questa, caro, dai, forse. Caro, totale, totale. La cosa drammatica è che ci ha pensato a lungo. Come la cicciolina in politica. E sai cosa vorrei? Cosa che andasse a Palazzo Chigi. Magari, Beppe, ti vedrei benissimo se sei d'accordo con me. Come la sua portavoce, ecco, la buona aiuti, il buon aiuti della cicciolina quando era c'era Berlusconi. Parenzo, oppure... che devo fare con questo qua? Dimmelo tu. No, che ipotesi sono due. Che o allertare, questo, o allertare no. Il presidio sanitario più vicino, che può essere un'ipotesi, o chiudere il telefono e mandarlo serenamente, tranquillamente e con grande pacatezza. Senti, caro, la legalizzazione della prostituzione, io sono d'accordo con Beppe, perché... Siete amici, naturalmente è una funzione sociale perché sai, sono persone che conosco io che hanno problemi. Io non sono... Siete amici, ti ha chiamato Beppe. E io frequento anche ogni tanto un camper qui nella zona petrolchimico. Dove? E c'è una bulgara, guarda che è l'ira di Dio, stupenda. C'è una, ho sappiato, veramente. Una bulgara? Bulgara, bellissima, guarda. Una bulgara in un camper, noi i camper li conosciamo, però dalle parti. Zona petrolchimico. Il petrolchimico bellissimo di Marghera, questo lo sai, però noi conosciamo un altro camper dalle parti no, di Codroito, no? Beppe, magari di un ritorno di una anche magari una cicciolina del XXI secolo in politica, non mi sembra, maiale, mi sembra dai, questo maiale, un allupato maiale. Mi sembra una roba vecchia ormai, una roba andata vecchia, caro Marco, mi sembra... No, dici che non va bene. Ma io mi sembra una roba ormai superata, abbiamo già dato da quel punto di vista, però un vorrei allupato. Andare dopo il camper dalle parti di che cos'era? Marghera. Ce ne sono di camper. Sì, tu vai a camper. Industriale. Perché vai a camper, per esempio? Perché non vai su internet a cercare le prostitute? Su internet? Sì. Perché non... Ah, riguardo le pornostar? No, le pornostar. Su internet, sai, ci sono i numeri di telefono su internet di un sacco di prostitute. Ormai la prostituzione è lì, non è più sulla strada. Ma io non frequento quelle, sai, quelle d'alto bordo, come si chiamano? Ma non sono di alto bordo, guarda, ti posso assicurare, ma perché? Non ti interessa, cioè, ti piace più andare sulla strada, in realtà. Ti piace più con la macchina avvicinarti a un camper. Questo è il punto fondamentale, o sbaglio? No, ma io, diciamo, andavo, adesso vado molto meno, però ecco, io non sono sposato, quindi vabbè, io sono d'accordo con il professorone Vittorio Sgarbi, che il matrimonio è la tomba dell'amore, io ho avuto anche tante storie e relazioni. Ma che sono? Cosa però ce ne frega? Però io preferisco ecco, essere un battitore libero, ecco, come vabbè, si ma si no, che dire, cazzo no? Ce ne frega, scusami, spiegami. No, cioè... come te Beppe, no. Ma no, ma tu... come me un cazzo. Come ma che te Beppe, ma mi conoscete da tempo, come ma funziona? No, non ci conosciamo. Ti chiama Beppe, come non te ci Beppe. Ti ha preso il modello. Molto libertino Beppe, ti apprezzo per questo. Che c'entra Beppe, questo? Cosa Beppe, c'entra? Vedi? Bello Beppe. Francesco dalla provincia di Catania, dai. Che disastro. Non è quello mi racconto, camper o non camper. C'è il Ducretino di Paranzo. Sì. Che lui l'imbisi se lo paga facendosi dire cornuto, cretino, coglione, deficiente, pezzo di merda. E non se lo paga lui, ma glielo pagano. per farsi dire queste parole. Me la paga l'azienda, certo. Sì, l'azienda, cretino, l'azienda, quella dell'imbici, l'imbici, cretino, cretino, l'imbici, sì. Quella ragazza l'imbici. Era disperatissima, disperatissima, perché l'imbici se lo paga lei con i suoi soldi, quale non facendosi dire coglione, cretino, pezzo di merda, frunzo. Bestia, lo capisci tu questo, cretino, che prendi in giro le persone che lavorano, cretino? No, sta aumentando l'empge, sta aumentando il mio empge con questo lei. Perché sei testa di cazzo, io sono di Catania. Sì. Vieni e ti facciamo un culo tanto. No, ma chi tu se non andò a camera a cercare di buttare. Hai meraviglia. Capito? Scemo di limpidi, cretino. Scusi, scusi, lei ha avuto una infanzia felice comunque, sì? Ce l'ho felicissima l'infanzia. Perché noi viviamo sposato. Bene, viviamo lei è fidanzato, bene. È sposato, no, cosa fa? Se si fa dire coglione e cretino per guadagnarsi l'impici, l'impici di guerra, si capito? Chiama impici, però vabbè, uguale, stupido, dai, stupido. La signora ha detto impici, vabbè, uguale, dai, stupidotto, che era disperata, stronzo, stupidotto, era disperata, cretino, stupidotto, bestia, perché tu devi fare i coglioni. È cretino, è pezzo di merda. Tu cornuto, non lo puoi dire. Scusami, Francesco. Cornuto, luce, sei pezzo di cornuto. Merda. Luce, cornuto. Bastardo, sì. È cornuto così. Tu, è terribile, perché in Sicilia, effettivamente, cornuto ha ancora cretino, un'offesa valoriale, capito? Io sono scavo, cornuto. E cornuto, cornuto, sono, ho le prove. Mi ha fatto le corna, perché sono sognato. Cornuto, ho le capito? Prove, cornuto. Sì, lo so, perché tua moglie mi ha fatto le corna, io sono scavo. Vedi che però, questo, da un punto di vista antropologico, stupido, è interessante, stupido. Ti spiego, te lo spiego, te lo spiego. Ecco, spiego al sud, non dico a te, cretino, vai via, ciao. Dicevo a Cruciani, al pubblico che ascolta, non a te. Imbecille, cretino. Tutti e due stronzi, cretini. Quando non ci arrivate, vedi quando fa un culo e chiude. Testa cazzo, devi parlare, devi discutere. Allora, no, quando non ci arrivi, vedi quando fa un culo e ti manda fermo, un culo. Fermo, Francesco, che se no mi scappa una persona. Fermo, resta lì, fermo. Ciao. La Zanzara. Assessore. Che cazzo fai? Ti sei svegliato adesso? È davvero un assessore a 5 stelle, ma nel senso... No, ma ho visto, mi è piaciuto Parenzo perché ha detto, nonostante che lui sia un uomo politicamente corretto, che preferiva Musumeci a Cancelleri. Sì, ma senza dubbio. Siccome ha perso di 5 punti, in realtà se avessi fatto la mia lista avrei perso Musumeci, che ha vinto di 5 punti. Io voglio capire una cosa, Vittorio, tu sei sicuro assessore? Sì, al 100%, matematico. Al 100%, sei stato presentato pure da Berlusconi. Cioè, se non ti fanno assessore fai un inferno. Vabbè, questo è il tipico, la ritorsione del violento che io sono, ma non direi che sono tutte persone che sono state correttissime, nonostante la loro lunga storia di trabocchetti, eccetera. Esatto. Mio, gli è talmente convinto, non mettono a me, gli fa soltare la regione, ha votato lui perché non è una persona seria, ma sì. L'unico elemento di entusiasmo e novità sono io. Se per caso facessero qualcosa, gli faccio perdere tutti i collegi alle politiche. Questa volta non avrei nessun sospetto, il problema è mio, cioè che io vado lì, metto in piedi una grande macchina, poi si arriva subito al voto, speriamo che lo facciano a maggio, quindi... Occorre che io riesca a fare l'assessore nonostante la campagna elettorale nazionale. Cioè tu stai dicendo che non ci starai mai praticamente? No, ci posso anche stare, ma è che è corto il tempo, perché se si vota in marzo non fai tempo a cominciare che già devi fare altra cosa, no? Sì, perché comunque l'obiettivo è sempre quello di fare ministro, di fare il ministro dei beni culturali, diciamo la verità. Cioè. Sì, quello lì è l'obiettivo, certo, il passaggio è anche logico. La cosa più da godere qual è? Alfano che non ha preso manco quello per noi, io lo dico da anni ormai, lo massacravo, non è riuscito, benché sia un democristiano, lui 4, beh, bellissimo. Cioè da godere, cancellato per sempre. Io dico una cosa, ma tu cambierai modo di vivere o no? Cioè, perché poi alla fine assessore in Sicilia, della Sicilia è diverso da fare l'assessore, bellissimo, che cazzo ne so, o sindaco, da una sveglia. Cioè, intanto facciamo la Sera della Zanzara a Palermo, capitale italiana della cultura, venite lì in un palazzo, noi facciamo tutti i collegamenti, venite giù e ci divertiamo. Poi lì il problema non è tanto, io non so niente di quello, so quello che voglio fare, ma non so la macchina come funziona. Cioè non conosci nulla della macchina della no, che ci sia un problema di burocrati da spostare, perché il potere essendo assoluto posso spostare tutto e cambiare tutto, però devo vedere che sia materiale umano ho. Cioè se tu hai sgarbi effettivamente crei delle energie che vanno oltre la destra, la sinistra, poi io ho detto Musumeci, certo Musumeci, tu dici io sono uno di sinistra, sicuramente, ma Musumeci è un signore che è onesto e sì, è bravo. Una qualità importante, ma è anche un bravo amministratore, vabbè, cosa vediamo, che purtroppo non si può dire. So. Ma Celleri, ma uno che ma gli ipocriti che sostengono l'abusivismo di necessità, loro che sì. hanno rotto i coglioni sulla legalità. Il primo atto che faccio è la moratoria per cancellare le paleoliche per sempre. Ah, questo è importante, sì. definitivo. Ecco, importante. Allora, nessuna paleolica si metta in Sicilia, ecco, mai più. Questo è importante. Allora, la prima cosa è basta paleoliche, quelle che ci sono già? Cerchiamo di vedere quelle che non funzionano, le butto giù. Appena una è ferma, la faccio buttare giù. Sì. Faccio un casino, sì. se lo ricordo da tutta la vita. Sì. E poi attacco la mafia tutti i giorni, sì. perché quella è roba di mafia. Sì. Quindi non mettere in piedi paleoliche, ma colonne greche. Sì. Bellissimo. E quelle che funzionano le guardo bene, secondo me non sono collegate. Sai come i quadri di Chirico che hanno il filo della luce? Secondo me non sono. Girano, ma non sono collegate a niente. Cioè, dunque, l'obiettivo è eliminare le paleoliche dalla Sicilia. Questo totalmente. Una definitiva, se me lo impediranno. Vuol dire che la mafia c'è, potresti pure che ci muoia lì. Scusa, ma dovresti mettere il tuo bollino sul gay pride, su qualche gay pride? Ah, quello subito, nomino, il primo che nomino è Crocetta, simbolo del mondo gay, almeno farà qualcosa. Cioè tu dici consulente per il mondo gay. Consulente dice. Per il mondo gay, Crocetta è matematico. Beh, devo fargli fare qualcosa, non ha fatto un cazzo per 5 anni, per i prossimi 5 farà vedere. Sarà contento Musumeci di questa proposta. Insegnamento. Ma il ponte è una puttanata, il ponte, ponte mai. Mai. Ma dai. Il punto più sismico del mondo e io vado a fare il ponte lì, c'è solo dei passi possono fare, cioè devono passare sul tuo cadavere, cioè per fare ho già detto di Berlusconi che è favorevole al ponte, che lo vedrà in orizzontale, non il ponte ma lui, perché ora che fanno il ponte lui sarà bello disteso senza possibilità di vedere. Però la realtà è che bisogna fare uno slogan che è più sticchio per tutti, questo lo sapevamo, sulla linea ci siamo. No, ma però... l'assessore alla cultura dovrebbe promuovere per esempio il Viagra gratis per quello non so se dipenda propriamente, sì, però la salute. Ma tu vai oltre, ma tu vai oltre esondi, cioè Viagra gratis, si può dire che bisognerebbe dare Viagra gratis in Sicilia? Sì, perché l'idea di rendere le persone più stimolate, più felici. Ah, certo, più felici, certo. Ah, che fare con la cultura. Tu hai detto che vanno bene anche i cosi, vanno bene i come si chiamano, i forestali, ma che sei impazzito? Sì, perché ma non hai visto quanti incendi ci sono? Ma dai, ma sono 22.000 forestali in Sicilia, ma è una vergogna, dai Vittorio. Ma sai quanto è grande la Sicilia però. Ma no, ma è una cosa indegna, no, una cosa ma, che... Ma che mica li puoi togliere il lavoro, non li rinnovi, aspetti che finiscano, ma che devi fare? Li metti nei musei, hai musei senza custodi, cioè occorrerà certo. inventarsi qualcosa perché le persone le usi. Ma no, ma ho capito, certo. ma tu hai detto che servono, che bisogna mantenere il posto di lavoro. No, ho pensato che con la storia degli incendi, ovviamente i forestali li puoi responsabilizzare. Tra l'altro io scoprì, facendo un articolo qualche mese fa, che sono i forestali stessi che talvolta piccano, forestali non di ruolo, sì, sì, piccano gli esatto, incendi per sì. poter avere le diarie dei giorni esatto. in cui fanno spegnere i fuochi. Che, beh, sarà una cosa su cui entrare. Se entri contro i forestali sulla loro dimensione criminale è diverso che sulla dimensione lavorativa. No, ma se ho capito. Lavorano, fai fatica a togliere il lavoro. Se sono criminali li metti in galera. Ok, ma se sono troppi ragazzi, ma il Canada ne ha molti sono di troppi, meno. Se sono troppi li metti nei musei dove ne mancano. Vabbè, c'è una distribuzione. Senti, un'ultima cosa, ma Berlusconi ti candida no, o no? No, ma non voglio essere che mi candidano da solo. Io la lista la faccio, perché sono costretto a fare la lista di rinascimento nei collegi proporzionali. Cioè, non c'è... No, ma ho capito, ma la candidatura sgarbi all'interno di un collegio con... di quella per forza, no? Quando sei nella coalizione. Scusa, ma che quindi... cosa hai detto che ha fatto scandalizzare la Meloni? Ho letto da qualche parte. No, ma niente, a un certo punto lui... tutte balle, perché poi l'ho scritto anche in un altro articolo ieri sul giorno, la storia è questa qua. Anche sul giorno dappertutto vede scrive. Le foto della bambina della Meloni, sì, ah sì. che bella come sta il tuo compagno? E lei risponde: il mio compagno sta bene, compagno dico io, sarà il camerata. Poi a un certo punto arriva la Paola che era lì mia assistente, allora sì, la Paola assistente, appare assistente. E lei è catalogata nel mio telefono come schiava. Dico: sai, questa ragazza non ha diritti umani, è la mia schiava. Allora dice lei: ma ribellati, devi ribellarti, le donne devono essere. Io ho detto: no, le donne non hanno diritti. Un numero sgarbiano assoluto, dico: dovete leggere il canto di Piccarda del Terzo del Paradiso. Allora lei mi dice: sì, Piccarda è quella che devota Dio, ma tu non sei Dio. Dico: sì, ma di Dio abbiamo dei dubbi, su di me non ci sono, io sono certo, di me non lo sappiamo, questa è una battuta. E racconto anche la storia della suora, che c'è, sulla storia della suora è divertentissima, vado a un convento di clausura ad Agrigento, sono tre suore, una di 80, una di 50 e una di 30, tutte carine, sorridono, eccetera. Quella di 30 era molto carina, e mi preparo una torta di pistacchi, a un certo punto io la guardo e dico, guarda, tu così carina, perché sei in convento? E dice, perché io amo Gesù. E dico, va bene, puoi amarlo anche fuori. Dice, no, perché lui è il mio sposo. Dico, sì, come sposo non è male, però si vede poco, non telefona mai, non c'è mai. Io ci sono. Lei mi guarda con l'aria un po'. Dopo tre mesi è uscita dal convento e mi ha telefonato. Provassi a farlo con Gesù. E te la sei fatta? E te la sei fatta? Adesso, io sono lì, assisto spiritualmente. Non la mia... Beh, insomma, ti ha telefonato, non è finita lì la cosa, certamente. Tu, Gesù, non lo puoi chiamare. Parenzo almeno c'è per la sua fidanzata, per sua moglie. Dio non c'è, Gesù non c'è. Era scandalizzata la signora Meloni, ovviamente. Era scandalizzata dal fatto che una donna potesse essere senza diritti civili per scelta, dico no, è quello che fa piccata. Ma scusa, l'hai messo schiava, l'hai messo nel telefonino, gli hai messo schiava. No, se l'hai messa lei, se l'hai messa lei. Cioè, la Paola si è messa schiava su come... Sì, te la passo. Sì, sì. Pronto? Scusa Paola, signora, ma tu, schiava? Tu ti... ciao schiava. Non ho capito, ti sei messa come schiava sulla memoria del cellulare? Sì, Ancella. Ma perché ti senti schiava di Vittorio? Perché? Non è che mi sento, lo sono. Ma sono totalmente devota. Devota è in una... tutto e per tutto, diciamo. Ma Vittorio è una religione. Sì, ma questo lo sappiamo, certo, ma quanti sono gli adepti più stretti di questa religione? Spiegami. Ah, io? Tu sei però, in questo momento, sei, diciamo, la schiava per definizione, cioè la schiava per antonomasia, la schiava principale, la devota principale. Sì, gli metto i calzini, per dire. Cioè. Gli metti i calzini. Lui a volte non mi chiama neanche per nome, quando ha bisogno di qualcosa, non mi dice Paola, mi fa oh, cioè nel senso sono anche privata del nome. Sì, neanche diritto al nome, certo. Esatto. Sei schiava. Cioè, però ti devo dire una cosa. Dimmi, dimmi. Ho capito che senza diritti si vive meglio. Bello questo. Mia. Cioè senza bello. Diritti cioè, è molto meglio. Troppe responsabilità, troppe... il diritto di qua. Meglio sudditi che cittadini, insomma. Sì, meglio, proprio meglio. Ciao Paolino. Ciao Paolo. Oh. Ciao Vittorio. Ciao ragazzi. Ciao caro. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. La zanzara. Naturalmente. Oh senti, il camion. Come fa, trombe, come fa? Se parla quel demente lì, quel comunista che vuole addrizzare il mondo, che vuole vietare di andare a puttare, dico, ma che te ne frega a te? Che cosa te ne frega a te? La gallina fa l'uovo e tu te ti fa male il culo? Io voglio andare a puttane, va bene, ci vado a puttane. Ci sono andato ieri sera, ci vado sabato sera, ci vado anche stasera, ci vado anche domani sera. Che te ne frega a te? Mi piace andare a puttana. È una cubana rifatta, un chiavatone esagerato. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. Però Parenzo, tu che continui a parlare di prostitute, giudicare chi va a prostitute, spiegami una cosa, come giudichi le donne che si mettono con uomini che nella vita normale non si sarebbero cagate di striscio, ma solo perché hanno una posizione sociale, dei soldi, del benessere, invece ci si mettono assieme? Spiegami questa cosa, dov'è la differenza? La verità è una, che siete due pezzi di merda, tutte e due. Finalmente ho capito che anche Cruciani è più stronzo di sto frocio di Parenzo. Ecco, questa è la verità. Dovete portare in tribunale sta coppola di minchia. Ragazzi, i primi provvedimenti che vuole prendere Sgarbi da assessore alla cultura in Sicilia sono incredibili. Sopprimere le pale eoliche. Sopprimere le pale eoliche in Sicilia. Vabbè, sua vecchia battaglia, diciamo. Certo. Tradizionale. Poi che cos'è che ha detto? Non mi ricordo più. Una serie di cose incredibili. No, poi la nomina di Crocetta, quella la mi nomina di una Crocetta cosa consulente del mondo gay siciliano. Mi sembra importante. Mi sembra più una provocazione questa roba qua. Non lo so. Allora, Raffaele dalla provincia di Arezzo, vai. Ma dov'è quello di prima? Sì, qual è? Sì, però metti bene il telefono, Raffaele. Quello di prima da Catania, me lo richiamate per favore? Raffaele, vai. Sì, buonasera, non chiama più il fenomeno, non chiama più il fenomeno. Chi è il fenomeno? Ve lo dobbiamo mettere nel culo, il grillino, non chiama più, il grillino. Grillino non chiamerà adesso. Ah, certo, no, bravo, no, è vero, bravo. Voglio sfidare, chiama, è ridicolo come Di Maio, uguali, tutte e due. Sì, però devi parlare bene, da un posto dove si sente bene, Raffaele. Mi senti ora? Viva voce, queste robe qua. No, non ce l'ho viva voce, dai. Sì, ti sento, che cosa vuoi? Perché stai godendo? Allora, stai godendo per la sconfitta di Grillo? Allora, proprio godere no, perché ha comunque vinto il Movimento Sociale Italiano e quindi non si può godere. Beh, adesso però quello, Movimento Sociale Italiano, era del Movimento Sociale quello là. Vabbè, insomma, dai, però godo per la sconfitta di Beppe Riglio. Perché? Perché Di Maio, l'hai visto quel ridicolo Di Maio che non si presenta in televisione con Renzi? È solamente un ridicolo. Perché ridicolo? Te lo spiego, perché loro, è la motivazione per cui non si presenta, perché non ha dato una motivazione giusta. Ha detto non mi presento perché Renzi non è più un competitor politico. Sì. Ma non è vero, fino a prova contraria sono loro che non hanno mai guardato i sondaggi. Sì, però Raffaele, scusami, ognuno fa il cazzo che vuole, quello ha deciso di fare così, punto e basta, non ci vuole più andare, ma chi se ne frega, dai, si prende gli insulti di tutto il mondo giornalistico, perché la gente normale non fotte nulla di queste robe qua, tutto il mondo giornalistico indignato contro Di Maio, però lui guarda oltre i grillini, se ne sono sempre sbattuti del chiacchiericcio dei quotidiani, degli esperti, dei politicanti e dei giornalisti. Hanno perso lo stesso. Hanno perso il 30%, amico mio, però. Godo. Sì, per carità, dovevano fare la rivoluzione, la Sicilia doveva essere il loro terreno di riconquista poi risalire. Guarda, al governo del paese. È meglio non governarla. Invece, ma guarda che invece Grillo torna a fare esatto. Questo ha ragione, primo. Secondo, Grillo torna a fare i suoi spettacoli teatrali, che è molto bravo. Amico mio, hanno preso il 30%, ma e di che stai altri, parlando? E gli altri? Ma stai parlando della follia? La Raggi è al suo ultimo mandato, perché poi non si può neanche ricandidare. Ma che non ne può sai? Cioè, no, da statuto... Come vecchio mio? Da statuto dei 5 Stelle... Va bene, Giacomo, chi se ne frega? Giacomo dalla provincia di Radica, dai. Ciao, c'è quello di prima di Catania? È così. C'è che il catanese, c'è prima o no? Francesco? Dimmi qua, che stavi dicendo prima? Niente, che sono incazzato con quel cretino là che mi prende in giro quella ragazza che lavora, quella dell'Inps, quella dell'Inps, sai fare il cretino e ti pagano l'Inps e che fai un cretino, fai il cretino e ti fai pagare l'Inps, più difficile ancora, l'Inps. L'MG, chiamalo come vuoi tu, ma sempre cretino, sì, perché tu, se tutti pagano l'MG, come dici tu, te la pagano, perché sei coglione, perché se non eri coglione non te la pagavano, ti dovevi fare un culo così a lavorare. Ma qui questo, come si chiama? E pagartela, scimunito. Ma c'hai la mezza in testa. Francesco, io non ho capito una cosa, che hai votato tu? C'hai la meuza in testa, Che c'entra la meuza? Quella è il catalogo. Il pane con la meuza, lui c'ha la carne in testa, la meuza in testa c'hai. Il pane con la meuza. C'hai la meuza in testa c'hai. Nella festa di tua sorella non ho sorelle, non credo nemmeno. Cercala che sempre la trovi, che sempre un siciliano è venuto a cavalcarsi una bella polendona e si è messa incinta e nasciste tu. Ti pare dove? Ma ti pare che ci sei tu? Ma che bel linguaggio, ci sei? Scusami, Francesco, un terrone è salito al nord, sì, giusto? Scopata Norde, una bella nord, e Norde. Sei nato tu. Scusa, altrimenti tu non potevi e poi nascere. Pago l'Inps, ma no, e poi certo. Io pago l'Inps. No, tu non ne paghi l'Inps, tu non ne paghi, no, te la pagano. Io pago come hai imparato questo, dice l'Inps. L'Inps. No, io voglio capire una cosa, Francesco, che hai votato tu in Sicilia alle elezioni? Che hai votato? 5 Stelle, io ho votato a Berlusconi. Vabbè. Si sapeva, vabbè. La maggioranza d'altra parte ha vinto. Hai votato a Berlusconi. Non ha detto nemmeno Musumeci. Ho votato a Berlusconi. Hai votato a Berlusconi. Sempre lui. Ma scusa, ma a te lo sticchio ti piace? Ma ci mancherebbe gioia. Gioia mia. Non è che ti piace la minchia, tia, no? No, quella la do. Se ti serve, posso venire. A te no, perché non mi piace, tu non mi piace, non sei il mio tipo. Ma sei sicuro che non ti piace la minchia, tia? Amico, no. Dicono diversamente. Ecco, vedi, lì, sapete, vedi come ti pagano l'Inps? Ma mi meraviglio che la Radio 24. Ah, sì. Radio 24. Li paga. È curioso per essere questo. Così cretini. È vero, questo è un tema la vero. Radio 24, che è una radio è seria, paga due cretini che si fanno dire coglioni, si fanno dire stronzi. No, guarda, se ci pensi è pazzesco, però. Sicuramente. È assurdo. Su questo concordo con lei. È assolutamente assurdo. È veramente incredibile. Cioè, infatti, anche io quando devo spiegare ai miei figli che lavoro faccio, è difficile perché gli dici che lavoro fai. Diciamo, comincia a diventare un po' molto spacchiosello. Un po'. Ma quanto ti piace a te la nerchia? Quanto ti piace a te? Non ci sono gay a Catania. Come no? Certo che ci sono. E chiedi i puppi. Ma certo ci sono. Ma comunque ci sono ognuno. Ma certo, dimmi, caro Paranza. E che ne i puppi a Catania. Pure, dai. E secondo me tu, alla fine, parlando sempre di queste cose... Non ti appendere, perché mi cade dal cazzo. Non c'è niente di male. Caro sciocco, non c'è niente di male. Ci mancherebbe. Cioè, per esempio, a te piacciono i trans. Secondo me a te piacciono i trans, per esempio. Non mi interessano completamente. Completamente, non ti interessa l'argomento trans. Beato te che sei stupido, comunque. Cioè hai meno problemi. Caro Paranzo, sicuramente. Ma almeno io mi guadagno da vivere. Non facendomi dire coglione, è pezzo di merda, è stronzo, è cretino. Ma come ti guadagni da vivere? Ma vado a travagliare, fai un serio. Come ti guadagni da vivere tu? Questo non lo posso dire. Perché appunto le marchette so. Questo non lo posso è dire. La strada, sulla strada guadagni da vivere. Sono sempre sulla strada. Camionista? Fa le marchette. Fa le marchette, come raccontava Pasolini. Ti devi guadagnare ancora l'Inpsi facendoti dire cretino e avanti. Secondo me tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Questo è il punto fondamentale. Sei un forestale, che ne sono dei tanti. Dipendente dalla regione. Ma perché sei fissato con i forestali? L'hanno scioccato tutti i forestali. Forestali, amico mio, ma la segua la regione Sicilia? La regione Sicilia quanti dipendenti ha? Ma non lo sai la Sicilia che c'è la disoccupazione? Se non se ne vanno a fare i forestali, che cazzo fanno sti cristiani? Ma a noi che cazzo ce ne frega? Cioè, non è che se potete essere diversi dagli altri, dai, ci vuole un commissario per 20 anni lì a cambiare le cose. Francesco, rotti i coglioni, ciao. Dai, ma rotti i coglioni, ciao. Ciao. Yeah, I get it, you're an outcast. Always under attack, always coming in last. Bring it up the bass. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast to kick in the ass. E passiamo, ragazzi, passiamo dall'altra parte di tale, per modo di dire, perché torna la grande rubrica. Torna la grandissima rubrica che non è mai morta. Noi monitoriamo sempre tutto, non vi preoccupate. Monitoriamo per voi tutto l'etere. Il peggio di Radio Calabria fu Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. E vai. Padania, mia bella e libera. Guarda Messina, Sicilia. Roma fuori. Bravo. Senza dubbi né ripensamenti. Da Bergamo sempre avanti, verso Catania. Guarda oltre. Togli il nome Nord dal simbolo della Fullega Nord. Vai vedere. E il povero Bossi sta lì coi diamanti a guardare sgomento. ma Matteo Salvini fai vedere a braccetto con la signora Le Pen. E ormai penso mai all'Europa vicina. E andiamo ragazzi con ascoltatori da Radio Padania, vai. Libertà. Bergoglio non bisogna ascoltarlo, che Bergoglio non è Papa, lui stesso ha detto fin dal primo giorno io sono il vescovo di Roma. Bergoglio non è il Papa, si è sostituito al Papa. Ma chi è? Senti. È una persona che diciamo ha voluto sostituire il Papa attuale per poi essere dalla parte dei nemici e quindi diciamo che è l'anticristo. Ah, ok. Ah, beh, non avevamo capito che è l'anticristo, eh? L'anticristo, signor Bergoglio, vai con gli immigrati, vai. Comunque loro non sanno quello che li aspetta e non sanno quello che stanno facendo, perché sono dei poveri ignoranti, privi di dignità, perché non hanno Dio nel cuore. Questa è nuova però, gli immigrati ignoranti, privi di dignità, perché hanno, non hanno Dio nel cuore. Sfonda il muro di onnipotenza. Bibbia non è una religione, come Dio non è una religione. Dio, l'unico Dio, è amore. Se questi poi hanno una cultura della morte, mi spiegate voi come fa a essere una religione l'Islam? Senza dubbi neri, l'Islam, cultura della morte. Beh, questo è come bracconeri praticamente. Padania bella e libera, guardavano servi di Roma fuori. Mi vedi fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Ezebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. La Zanzara. Sto ascoltando il podcast della Zanzara e mia moglie viene a rompermi i coglioni facendo la inutile domanda: caro, che lenzuola nuove vuoi che mettiamo sul lettone? Ma vai a cagare. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento la Zanzara. Anche lui, ehi, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parento, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Ma non so se ti sei reso conto, Parenzo, del WhatsApp di Mauro qualche minuto fa, Maurone, che ti accusa per avergli detto che lo vuoi accarezzare. Sì, sì, dice che vuole fare la moviola. Sì, sì, ho sentito tutto perfettamente. Dimostra lo stato di salute, dimostra ancora di più che ha bisogno di essere assistito, coccolato, di una borsa dell'acqua calda, di avere qualche affetto. Io sono disposto in futuro ad abbracciarlo forte, perché poi ho visto delle foto sue, è veramente brutto. Cioè è un uomo schifoso, ha i capelli mi pare rossi, bianchi evidentemente, tinti di rosso. No, grasso, rossi, no, biondi. Sfatto, non lo so, delle grasso, foto mi mandano. Dai. Sfatto, grasso. No. Con sovrappeso, va bene, d'accordo. No, ma è uno schifo, tutto sembrava anche tutto sudato. È un uomo che suda anche d'inverno, ecco, io come tu sai non sudo neppure d'estate, perché trovo sgradevole sudare, trovo proprio inelegante. Se tu dici un uomo fisicamente sgradevole, dici. Sì, totalmente, mi dispiace. Lombroso, come tu sai, non, probabilmente non aveva ragione. Cioè, tu lo definisci come un uomo repellente alla fine. È a dir poco, amico mio, a dir poco. E perché lo vuoi abbracciare? Dici come atto d'amore? Perché dici. Come atto proprio di, no, sai come faceva Gesù, che abbracciava chiunque, no? Sì. Per amore, proprio per dimostrare la sua assoluta e totale. Gandhi, no, più che Gesù, forse è meglio dire Gandhi. Gandhi diceva ai nemici facciamo un sorriso, loro non avranno la forza di tirarti una sberla. Ecco, sorridigli con compatimento proprio, cioè dicendo ma tesoro, ma perché parli così, Maurone, dai. E lo abbracci forte. Lo abbracci forte. Fortissimo in quello schifo di grasso, di sudore, di puzza, di sporco, di persona orrenda che è fuori e dentro, ma lo abbracci. Ma tu sei la merda! Tu non conti un cazzo! Lo stringi, come si fa con i bambini quando sono arrabbiati, che tu li devi stringere, fa sentire il calore e smetteranno di urlare, nel caso di Mauro di abbaiare, diremmo, no? Smetteranno di abbaiare, lo devi stringere al tuo petto, forte, forte, forte, combattere quella puzza, quella repellenza, quel cattivo odore, quei miasmi che quel corpo schifoso e repellente, odiato da tutti, emana, però lo devi abbracciare. Picciolone, eccolo, il mio bel pupattolone. Anche il gatto se n'è andato, ad esempio. No, dire. No, il gatto non se n'è andato. Sì, si è suicidato. Stiamo parlando di Mauro da Mantova. Si è suicidato il gatto. Sì, sì, il gatto di Mauro da Mantova si è ucciso. No. Piuttosto no. che stare lì, no, si è tolto la vita. Sai che i gatti hanno 7 vite. Ecco, lui, stando con Mauro, ne aveva 6, cioè gliene hanno addirittura tolte 6, appunto. Gliene rimaneva una. È rimasto lì un mese, si è buttato dal primo piano. In genere i gatti sopravvivono, quello è morto. Allora, intanto hanno condannato per apologia di fascismo il sindaco di Affile o Affile, non mi ricordo, per la storia di Graziani, non so che cosa. Che meraviglia. No, ma che meraviglia, una follia totale. Che meraviglia. E ci sono stati degli arresti nel campo rom di Alessio il Sinto, tanto per... arresti, tanto scusa, per pensavo arresti di gente di fascisti, cioè tu esulti per i fascisti nuova, arrestati, sì, ma non esulti per gli arresti nei campi rom. I signori di Cosa Nostra, di Forza Nuova, lapsus, chiedo scusa. No, veramente un lapsus che mi è uscito così. Signori un lapsus è stato. Accostamento tra Forza signori, Nuova e Cosa Nostra. Sì, perché no, un lapsus. I signori di Forza Nuova mi attaccano sul sito, mi scrivono sulla mia pagina Facebook delle minacce terribili, inenarrabili, quindi sai. Vabbè, comunque arresti nel campo rom di Alessio Sinto. Non dico nulla, ma se qualcuno delle forze preposte controllasse un po' la mia pagina Facebook, forse potrebbero prendere dei provvedimenti di questi signori. Forse. Allora, io non dico niente, non è che dico alle forze, questo. Non voglio dire alle forze di polizia di verificare le minacce però, se qualcuno verificasse potrebbe passare ai fatti, diciamo. Allora, arresti nel campo rom di Alessio il Sinto, sequestrati droga, auto e furgoni. E come mai? Come mai, Parenzo? Non è un campo rom della felicità. Il campo rom di Salone dove c'era Alessio il Sinto, probabile stupratore. Però c'è un altro punto che voglio parlare, di cui voglio parlare con te. Sono gli editori del perché non fanno il nome dei presunti stupratori o degli stupratori registi, eccetera. Hanno paura di cause milionarie. A proposito delle molestie, chiamiamo Massimo Fini. Dai, Massimo Fini, mio amico Massimo Fini, vai. Pronto? Massimo? Sì? Come stai? Sono Cruciani. Ciao Giuseppe. Eccoci. Allora Massimo, voglio chiederti subito una cosa. Fioccano denunce, molestie, denunce di molestie, eccetera, eccetera. Alla fine è il maschio che fa schifo, è questo il punto? No. Scrive Nietzsche che l'amore è l'eterno odio fra i sessi e come al solito ci azzecca. Le donne sono una razza nemica, diventata pericolosissima, cioè? perché adesso qualsiasi atto, siccome noi siamo dalla parte, noi maschi siamo dalla parte della domanda, è chiaro che tu un gesto di intrusione nella sfera personale di lei devi farlo per farle capire che le piaci. Dipende che gesto, però. Naturalmente dipende che gesto, ma voglio dire, siccome si parla di atti inappropriati, qualcuno mi spieghi che cos'è un atto inappropriato. Tu non hai mai fatto piedino a una ragazza mentre eri a tavola? Denunciati, mettiti nella lista della vergogna, Cruciani, scusami. No, poi questa cosa ha veramente il grave effetto di confondere atti come le molestie sessuali, che ripeto sono un campo molto, molto difficile da terminare, con le violenze vere e proprie, che sono lo stupro, che è una delle atti di violenza più gravi che ci siano, più dell'omicidio. È una questione di misura, di sensibilità reciproca, ovviamente. Tu devi capire quando lei non ne vuole sapere. Appunto. Ma anche qui è molto difficile, perché come sapete bene, siete anche voi uomini, Parenzo non so, ma tu senz'altro. Grazie. Ecco, grazie. Alle volte, figli, il no di una donna nascondi un sì, quindi un minimo di insistenza, come... di insistenza, tu dici qualche volta è normale. È normale, è normale. Sì, ma di cosa parlate? Dove stiamo vivendo? No, poi voglio dire una cosa, diamo ragione ai musulmani, per cui la donna è coperta da testa e piedi, è accompagnata da un parente. E così si evita ogni equivoco. Sì, sì. Noi viviamo in un altro mondo, ovviamente. Cioè, tu stai dicendo una cosa molto semplice: che l'insistenza dell'uomo, che tu dici essere assolutamente naturale per una serie di motivi, perché l'uomo, diciamo che la domanda oggi è dalla parte dell'uomo, diciamo, no? Sì. Cioè, l'insistenza da parte dell'uomo, anche esplicita, e anche un no iniziale della donna, non è che automaticamente si trasforma in reato. E questo è il punto fondamentale, o sbaglio? Certamente, tieni presente. Che non è che c'è solo la molestia unilaterale, voglio dire da parte dell'uomo nei confronti della donna, ma c'è anche quell'altra che potresti considerare molestia, il fatto che tu vieni continuamente provocato dal nudo femminile nelle pubblicità, in TV e dappertutto. Cioè quella secondo te è una molestia? Se stiamo su questo piano sì, perché a me può disturbare che una mi sculi davanti e mi provochi. Ma cioè, è una provocazione, ma che vuol dire questo? Non vuol dire niente. Ma no, che discorso, ma come è? Non vuol dire niente il vostro discorso, cari miei? Dico che questa è una provocazione che mi dà fastidio. Vabbè, ma che provocazione adesso, è? Ma quale provocazione è? Per fortuna cioè, il nudo di una pubblicità ti dà fastidio, non ho capito. Il nudo di una pubblicità o che ne so, una donna vestita per strada che fa vedere il culo o le tette ti dà fastidio? Potrebbe darmi fastidio. E dunque ti darà gioia semmai, no? Che fastidio? Ti darà gioia no, semmai, no fastidio? Ma una gioia, che ne so. Ma a parte il fatto che veramente le donne hanno perso la loro antica astuzia, questa continua esposizione del nudo femminile fa sì che il maschio si ritragga, il contrario, non che si mette lì a palpare, ma si ritragga perché non gli interessa più. Ti ritrai tu, ma il maschio normale non si ritrae, anzi ha l'approccio giusto, normale, tu ti ritrai, tu ti ritrai. Non esiste il maschio normale. Ma il maschio normale, quello che conosce le regole del buon vivere civile, che sa come allora approcciarsi a una donna. Allora è la persona normale, caro mio, non il maschio. Il maschio normale, se no sembra che ci siano solo gli animali o quelli che si arrapano, e siccome si arrapano non possono vedere una che sculetta. Delle follie, no, ma sta dicendo Giuseppe ha capito quello che voglio dire. Lui sta dicendo il contrario. Due bestie si capiscono, no, per forza. No, lui sta dicendo il contrario. Spesso provoca nel maschio non l'arrapamento, il nudo delle donne, bensì la timidezza, bensì la il freno. Non è che questo non mi Massimo sembra che sia dire, così. No? Sì, esatto. Io dico, ma non mi, io ho capito bene. Ti fa cadere la libido. Si dice ormai molestia quello che non è molestia spesso, no? Mi pare che in questo periodo, da Weinstein poi, sotto l'influsso del puritanesimo sessuofobico americano, molestia sia diventato tutto e si sia esasperato il concetto di molestia. È facile mettere in croce un uomo semplicemente perché ci prova, questo è il punto, no? Sì, non solo, ma ti dirò, siamo prima in Weinstein, anni fa, un banchiere americano dice: io non salgo su un ascensore solo con una donna quando è sola, perché in certo piani può succedere di tutto. Sì. Ecco, io che non sono un banchiere americano e che ho degli fan giovani, ragazzi e ragazze, una volta ricevevo tutti a casa, oggi ricevo a casa solo i ragazzi e le ragazze li ricevo al bar. Perché diventa troppo pericoloso, basta che lei dica: ci ha provato, io che possibilità ho di difendermi? Intanto il circuito mass mediatico mi distrugge. Ciao Massimo, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da su piazzaitalia.it. Acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Pronto? Signor Di Battista? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani. La disturbo? Cruciani, se la prenda nel culo lei e la Radio 24. E perché, perché me la piglio nel culo, scusi? Chi lamenti, non lo dico. Che gli uomini fanno la pipì sotto la doccia. Ma per te è una cosa strana? Una cosa da depravati. Da depravati, però. We are on fire. This is how we dopo Massimo Fini, caro David, andiamo in provincia di Latina, Giacomo. La cosa incredibile è che a Fini danno fastidio i culi delle donne. Sì, cioè, sì, addirittura sì, li interpreta come una provocazione nei confronti del maschio, no? Quasi sì, sì. a livello delle molestie, diciamo, no? Li ha messi sullo stesso piano, quasi, dico. Infatti, quasi. È quello che mi manda i matti a me. Giacomo dalla provincia di Latina. Vai, ciao. Giacomo, dimmi, Giacomo, ciao. Dimmi. Senti, mi metti un sottofondo di Metallica? Adesso non è che stiamo qui al jukebox, amico. Ma tu che sei, il fascistone della provincia di Latina, o sbaglio? Sì, sì, sì. Bravissimo. Oddio mio, cioè, è arrivato lui. Si capiva da subito. Che c'è? No, dimmi. No, ma che Parenzo, che c'è? No, che no c'è? Non c'è Parenzo, non ha voglia di interloquire oggi Parenzo con lei. Senti un attimo. Sì, che gli devi dire? Adesso mi ascolti. Oggi non ha voglia Parenzo né di ascoltarti, purtroppo, né di intervenire, non ha voglia proprio, cioè è mia facoltà. Anzi, mi alzo dalla mia postazione. No, aspetta. Non lo ascolto. No, mi fa schifo, non lo ascolto. Aspetta un attimo. Sentiamo. Che è, ha violentato quelle due minorenni, 14enni, no? Sì, sì. Tu adesso mi devi dire, caro Parenzo, se erano le tue figlie, avresti fatto? Ma non è che lui sono li sta difendendo, ma risulta, ma purtroppo non capisci, questo io posso anche parlare con te, ma tu non capisci. Non ho mai difeso un criminale, ma neanche chi ruba, figuriamoci chi commette uno stupro. Ma come non lo difendi? Dici rom, da ho detto, ma vedi che allora sei stupido, purtroppo. Ho detto no, semplicemente. Sono stupido, sì, purtroppo, sono stupido. Oh, già questa è un'ammissione, finalmente. Allora, appurato che sei stupido. No, ma un po' più di te sì, però, perché ho semplicemente detto, ma Giacomo, tu li bruceresti i rom, Giacomo, tu li bruceresti i rom. Ancora, ecco, vedi mio padre. C'è il padre dietro. Ma che bella famiglia. Ma che bella famigliola, allegra. Tu faresti una fornace. Io con ho rom, detto, dai. Chiamate lo stupratore, ma non rom stupratore, perché lo stupratore è uno stupratore criminale, fine. Ho detto questo, amico mio, ho detto semplicemente. Ma perché non mi puoi essere amico? Beh, per me è impossibile essere amico di un nazista, chiedo scusa, è proprio impossibile. Adesso hai detto una cosa... Io non l'ho detto di esserlo. Vabbè, amico mio Giacomo, hai detto le peggio cose, dai, su, me lo ricordo benissimo. Tu e tuo padre avete detto che siete fascisti, che avete simpatie per Hitler, che bruceresti, che i rom vanno bruciati. Me lo ricordo benissimo. Dai. E allora? Io non posso essere amico né tantomeno dialogare con una persona. Aspetta, 11.000 visualizzazioni sulla chiamata. Allora, senti, sulla chiamata che avete fatto insieme, allora che vuol dire questo? Delle ma che vuol 11.000 dire? Visualizzazioni, no, voi avete messo su YouTube. No, io non ho messo niente su YouTube, lo mettono. No, come no? Vabbè, ma non ho capito, Giacomo, ma che cazzo vuoi? Non ho capito bene, spiegami, che cosa vuoi stasera? Che cosa devi dire? No, io voglio sapere da Parenzo, perché io ma non perché ho tuo padre, non perché tuo padre difeso. È nazista? Perché tuo padre è nazista? Spiegami, perché? Non è mio padre nazista, sono io nazista, no mio padre. Ma tu sei ubriaco, cioè questo è il punto. Vabbè. Che faresti con i rom? Che faresti con i rom? Per riassumere, così poi chiudiamo. No, non c'è da riassumere, però purtroppo. Che faresti bruciati. Con i rom? Bruciati, ecco il padre da dietro che vette. Ecco il padre, sì. Eccolo lì. Il padre. Ecco. No, basta con sta carità, basta con sta mazzetta. Ciao Giacomo, Giacomo è padre, ciao. Tutto vero comunque, non è finto, tutto vero. Drammaticamente vero, va detto. Allora ragazzi, spazio importante adesso, spazio importantissimo, si potrebbe dire la zanzara per la virilità. La zanzara per la virilità, la zanzara è per la felicità più che per la virilità. Caro Parenzo, siamo in collegamento con un urologo e andrologo molto importante, in Italia uno tra i top, diciamo top. In Italia. Ma nessuno ha bisogno, però perché cosa c'è? No, molta gente ha bisogno. Stai scherzando? È fondamentale. Il professor Nicola Mondaini, buonasera caro professore. Buonasera a voi, grazie per l'introduzione. Allora, caro professore, deve sapere che io ho una famiglia di urologi. Mio zio forse lo conosce, il professor Cruciani. È stato... Ha dovuto cambiare il cognome lo zio da quando il nipotino, l'adorato nipotino, fa questa questo successo radiofonico, il professor Cruciani, che effettivamente è stimatissimo nell'ambito dei medici, ha preso il cognome della madre, perché certo, diciamo, hai capito, questo è il danno fatto alla famiglia Cruciani. Questa è buona, oggi questa ti è venuta buona, devo dire la verità. Grazie. Allora, grazie. Devi sapere che il professor Mondaini, che è un toscano di questi abbastanza verace, anche se molto professorale, diciamo, come incedere, diciamo, come parlata, e lo sentirai, e si occupa di disfunzioni erettili. Ottimo. È fondamentale questo. Però purtroppo non ho, non devi essere tu. Quanti italiani soffrono, professore, di disfunzioni erettili? Diciamo la verità una volta per tutte. Sì, sì, i dati ufficiali dicono che 3 milioni di italiani soffrono di problemi sulla sfera sessuale. Allora, soprattutto, ragazzi, i camionisti dicevano, no? Diceva lei prima. Si va per professioni oppure no? Sono i camionisti di Latina, diceva anche lei. No, le professioni non c'entrano, ma 3 milioni sono tanti. Sono tanti, ragazzi, non si può scherzare su queste cose. Moltissimi ascoltatori della Zanzara chiamano qui e chiedono, e chiamate continuamente, interpellate professori, esperti, eccetera, per capire se si può fare qualcosa. Parenzo, stai fermo, perché sennò si sente la scossa del microfono lì da Pescara. Sì, allora, professore, c'è una cosa fondamentale che è stata praticamente da poco scoperta. Ancora bisogna valutare bene le conseguenze, eccetera. Però è una cosa che viene da Israele. Incredibile, dictu, caro Parenzo. Questo è importante, te lo conferma il professore. È la parte della ricerca scientifica. Allora, gli israeliani hanno praticamente inventato una cosa che poi bisogna vedere se avrà successo o no, che sono le famose, ne parlavamo l'altra sera, le onde d'urto. Allora, che benefici possono portare le onde d'urto invece delle pasticchette, il Viagra, queste robe qua? Allora, le onde d'urto, che sono state studiate dagli israeliani, hanno visto che utilizzando degli apparecchi che producono delle onde d'urto a bassa intensità, che è una cosa particolare, se applicate sul pene, queste onde d'urto determinano, in un termine medico, una neoangiogenesi, che spiegato per tutti vuol dire vanno a stimolare la produzione di nuovi vasi sanguigni. Beh, questo è importante. Allora, prima interruzione. All'interno del pene. All'interno del pene. Parenzo, hai capito bene? Gli israeliani, vecchi volponi, hanno applicato le onde d'urto, che chissà come avevano impiegato prima e chissà perché cosa venivano impiegate queste onde d'urto. Mio, le onde gli d'urto. Amici del Mossad, che si è scoperto oggi, ex agenti del Mossad, che pagavano e agivano per conto di Weinstein. No, venivano pagati. Venivano pagati per Weinstein. Coprire le porcherie di Weinstein. Vabbè, ma questo è un altro. Ex agenti. Ma questo è un altro argomento. Allora, professore, allora, queste onde d'urto che provocano, lei mi ha detto, queste onde d'urto, per capirsi o gli ascoltatori, sono le stesse con una intensità diversa che vengono utilizzate, che tutti penso conoscano, sulle problematiche della calcolosi renale. Cioè, io le ho utilizzate utilizzate per la cosa, in realtà, erano altre onde d'urto per problemi al piede, alla tendine d'Achille. Tipo poi ci sono altre ancora. In base, ma come si fa? Dove si mette questo pene? Scusi, questo apparecchio si applica sul pene. Sì, ma come? È come una sonda che si mette in 6 zone del pene. È un tubo? È una sonda, diciamo che una sonda. Ma non si infila dentro, no? No, non si infila dentro, si appoggia sopra in determinati punti e in ogni punto si danno 500 scariche. Pensa quante donne adesso, tornando a casa, controlleranno il proprio marito. No, ancora in Italia non sono arrivate le onde d'urto. Però scusi, professore, mi faccia capire. Allora, l'apparecchio in cosa consiste? Cioè, si mette il pisello. L'apparecchio consiste nel prendere il pene. Sì. È un braccialetto elettronico, sostanzialmente. Che potrebbe essere un ecografo, per capirsi. Sì. Sopra il pene e in 6 punti del pene precisi. Ma si mettono le cose su 6 punti? Cioè, si mettono si mette la sonda su questi 6 punti e si scarica in ogni punto 500 punti. Mamma mia, fa male o no? I pazienti dicono che hanno una piccolissima uggia. Quindi una piccolissima? Uggia. Appena un po' di dolore. Ma una cosa un dolorino. Minima. Ma lei l'ha provato su se stesso o l'ha provato? Non l'ho provato, l'ho provato su dei pazienti che mi hanno riferito questo tipo di Ma sensazione. Si può fare in Italia già? Sì, si può già fare, circa da un annetto questa apparecchiatura è arrivata, però il punto chiave è che in questi giorni sono usciti i dati ufficiali fatti dalla Società Italiana di Andrologia, che ha deciso quindi di valutare se questo strumento aveva una validità scientifica o invece no. E che si dice? E si dice che sembrerebbe che il dato sia confermato da un punto di vista scientifico. Ma questo è importante. È veramente una risposta oggettiva per cui pazienti che Fino ad oggi utilizzavano le pasticche, facciamo così in maniera veloce, possono oggi fare a meno delle pasticche, o invece pazienti per i quali le pasticche iniziavano a perdere l'efficacia, ecco, perché dopo un po' ritornano ad avere la stessa. Ma perché dopo un po' le pasticche perdono efficacia? Se uno prende troppo Viagra, alla fine Viagra fa cazzo, questo è il punto. Allora, se questi farmaci, per capirsi, in teoria non dovrebbero avere la perdita di efficacia nel tempo, però probabilmente un abuso o un utilizzo probabilmente non corretto può portare nei decenni, anche perché oramai all'abitudine, per capirsi, no? Viagra, all'abitudine. Esatto. Ma questo è importante. Ormai ha 20 anni. Quindi, insomma, allora, io voglio dire una cosa, professore, scusi. Allora, quante sedute bisogna fare per tutti quelli che sono interessati? Cioè, chi è interessato è praticamente una vastissima platea. Sono le persone che non li si drizza, diciamo la verità. Che, intanto, ringraziate Israele se vi torna. Le persone hanno questo tipo di problematica e che quindi con 6 applicazioni, è stato visto, possono avere nel 70% dei casi una risposta positiva. Caro Mauro Mantova, che sei questa scoperta scientifica aiuterà alla diminuzione dell'antisemitismo nel mondo, in particolare in Italia. Cioè, grazie Israele per averci fatto tornare i piselli dritti. Questo è il punto. Questo tu l'hai sintetizzato così. Facciamo un conto rapidissimo: 3 milioni di persone hanno questo problema. Nella nostra redazione stessa, io ne ho contati 3 di persone. Mercupoli e il regista La Corte. La Corte non risulta. Una redazione di 5 non è poco, no? 3 persone che hanno problemi, Ramelli è bello virile invece, e la situazione mi pare drammatica. Allora, se su 3 persone e 3 milioni, 3 milioni di persone dovranno dire grazie ad Israele. Su 3 milioni sarà un 10% di antisemiti, quindi si combatte l'antisemitismo grazie al ritorno alla normale attività sessuale. Allora, la parola torna al professor Mondaini. Sì. Allora, il punto fondamentale qual è? Quanto costa questa roba? Allora, queste applicazioni a seconda... Una seduta costa, io penso, in media, su una media italiana, diciamo, ci sono diversi centri che già le fanno, siamo intorno ai 200-250 euro. Ammazza, per cui una cura completa costa sul 1200-1300 per avere un 70% di possibilità di farti raddrizzare di nuovo il pisello. Beh, insomma, non raddrizzare, rifunzionare. Rifunzionare, scusi, ma perché è vero perché che lei... raddrizzare, lei tira fuori un altro argomento. Quale sarebbe l'argomento? Che esiste un'altra problematica, che è il pene curvo. Quella l'affrontiamo un'altra volta, se lei è così gentile da tornare. Il pene curvo è fondamentale. Allora... Che è invece il problema di Donato D'Avarese. No, ma che c'entra quello? È un problema che non è raro, perché i dati ci dicono che gli uomini tra i 50 e i 60 anni nel 7% hanno una problematica legata al pene curvo. Cioè, io non motivo per cui la Lores di Vicenza è sempre agitata è che l'ex marito aveva esattamente questo problema. Da qui l'indipendentismo. No. Cioè, quelle cose lì vengono tutte dopo, capito? Il primo problema è l'ex moglie dal traumi. La Lores ha avuto il trauma del marito con quella situazione. Allora, ragazzi, io devo dirvi una cosa: io sono tra i 50 e i 60, 51, però questo problema, francamente, non ce l'ho. Comunque, professore, è vero che si rivolgono a lei anche persone di 16-17 anni? Non diventa duro nemmeno a 16-17 anni? Mamma mia, purtroppo, ragazzi. Purtroppo questo è un dramma, devo dirlo. È che negli ambulatori andrologici, mio ma credo anche di tutti i colleghi in Italia, c'è sempre un maggior numero di ragazzi giovani, si intende 16, 17, 18 anni, che si bloccano, alle prime esperienze sessuali che hanno il blocco, impatto, il famoso blocco. Esatto, un blocco, bravo, esatto. Professore, grazie, au revoir, grazie. Grazie a voi. Grazie. Viva Leon de Durto, viva Israele, grazie. Ademè. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa crede che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole l'anerchia, non la barba, ci vuole l'anerchia, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre l'anerchia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Allora, io vorrei... Guarda, tu non mi credi? Io vorrei parlare di fica.